passo in mezzo al mare. Richiedo l'umiltà per essere nessuno. Trovo più verità in un sasso in mezzo al mare. Richiedo l'umiltà per essere nessuno. Trovo più verità. Don't worry. realizzare progetti. Percorro la mia strada a pugni stretti. I miei sogni sono rinchiusi in questi cassetti. Vuoi fare soldi facili? Allora cosa aspetti? Il buio mi aiuta a realizzare progetti. Percorro la mia strada a pugni stretti. I miei sogni sono rinchiusi in questi cassetti. Vuoi fare soldi facili? Allora cosa aspetti? Voglio fare soldi naturalmente facili. Un conto in banca, una villa, un orologio che brilla, una ragazza che ogni ora mi squilla e mi tratta come un bebè all'interno di una culla. Voglio una Lambo parcheggiata sopra il tetto, non che io la sappia guidare, è solo per l'aspetto. Odio le groupies che parlano e poi non la danno. Vieni a casa mia, facciamo il botto tipo Capodanno. È un nome che vale quanto un diamante da 20 carati. Progetti che in futuro, zio, già li ho registrati. Posso dire a tutti che sono un bugiardo, ma sai com'è, zio, sbaglio quando parlo. Il buio mi aiuta a realizzare progetti. Percorro la mia strada a pugni stretti. I miei sogni sono rinchiusi in questi cassetti. Vuoi fare soldi facili? Allora cosa aspetti? Il buio mi aiuta a realizzare progetti. Percorro la mia strada a pugni stretti. I miei sogni sono rinchiusi in questi cassetti. Vuoi fare soldi facili? Allora cosa aspetti? Nella mia testa vagano frasi contorte. Penso solo a soldi e fumo, cioè alla morte. Posso anche sbagliarmi quando ti parlo. Un passo falso, sai che non posso farlo. Non mi basta il sapere per avere il denaro. Voglio solo il denaro, qui il sapere è troppo caro. Brucio la sofferenza restando in silenzio. Anche questa sera sotto botta d'assenzio. Nel portafoglio non ho più carta colorata. Nei locali fisso a zonzo tutta quanta la serata. Tra mignotte alcolizzati, bambine spacciatori. Non mi faccio scrupoli, poi li mostro tutti i miei tesori. Il buio mi aiuta a realizzare progetti. Percorro la mia strada a pugni stretti. I miei sogni sono rinchiusi in questi cassetti. Vuoi fare soldi facili? Allora cosa aspetti? Il buio mi aiuta a realizzare progetti. Percorro la mia strada a pugni stretti. I miei sogni sono rinchiusi in questi cassetti. Vuoi fare soldi facili? Allora cosa aspetti? Il buio mi aiuta a realizzare progetti. Percorro la mia strada a pugni stretti. I miei sogni sono rinchiusi in questi cassetti. Vuoi fare soldi facili? Allora cosa aspetti? Il buio mi aiuta a realizzare progetti. Percorro la mia strada a pugni stretti. I miei sogni sono rinchiusi in questi cassetti. Vuoi fare soldi facili? Allora cosa aspetti? Oh, new day, new shit. AS Studio 2010, Mendox. Non servono racconti, il cuore dice ciò che provo, un corpo senza anima, adesso è rimasto solo, ti cerco e non ti trovo, mi dispero, dove sei? Tu solo pensiero che illuminava i giorni miei, ti guardi attorno, infranto mia il tuo cuore, quello chiamato amore reduce di un'illusione, ricorda, ti ricorda lui, si vede che ti manca, purtroppo è verità, non tratti di circostanza, ciò che avevi accantonato nel tuo passato, un libro di ricordi non basta per dire ciò che c'è stato, ti senti a pezzi dentro un vuoto che non si colma, ovunque ti giri spegni, vedere almeno la sua ombra, ti senti morire, vivere non è lo stesso, non ti meritava, capirà cosa ha perso, stai sul letto a pensare, diffidente del presente, ma l'ho provato e mi convinco, nulla è per sempre. Pensati come un tempo, no, non è lo stesso, è solo vederti un momento crea un vuoto dentro, è andato in questo verso, il legame si è sciolto, paura che tu ricolpo diventa un ricordo. Pensati come un tempo, no, non è lo stesso, è solo vederti un momento crea un vuoto dentro, è andata in questo verso, il legame si è sciolto, paura che tu di colpo divenga un ricordo. Nulla è per sempre, e lo dico spesso, lo ricordo ieri, oggi è sempre quello che è successo, da quando mi hai lasciato un vuoto e creato, è una vita fragile, hai distrutto, dove il mio mondo mi sembrava fare a butto, dove non ci arrivo nemmeno se mi butto, ora è pieni di piombo, su tutto, tu mi hai lasciato ed io ricomincio, riparto da zero e dal mio assoluto, rivaluto tutto, rivaluto il mio vissuto, dolore e male, questo è ciò che hai creato, ma fa nulla tanto, tu hai sbagliato, hai perso una persona davvero importante, e non tornare da me, vai dall'amante. Pensarti come un tempo, no, non è lo stesso, è solo vederti un momento crea un vuoto dentro, è andata in questo verso, il legame si è sciolto, paura che tu di colpo divenga un ricordo. Pensarti come un tempo, no, non è lo stesso, è solo vederti un momento crea un vuoto dentro, è andata in questo verso, il legame si è sciolto, paura che tu di colpo diventa un ricordo. Se ti vedo tra la folla, sento ancora dolore dentro, ma devo farla finta, l'ho capito, nulla è eterno, io ancora ti penso, ma purtroppo è naturale, da ora ho paura di potermi rinnamorare, si fa male una rabbia senza autocontrollo, ti valorizza ancora quello scritto su sto foglio, ti voglio ancora, il destino ha scelto le strade, in quell'istante il tempo l'avrei voluto fermare. Io lo so, nulla è per sempre, ma voglio vivere il mio presente. Tu hai giocato sin dall'inizio con i miei sentimenti, ma è un tuo vizio. Non voglio più vederti nella mia di vita. Spero che la nostra storia è davvero finita. Vai via da me e dal mio cuore. Spero che ti rimpiangerai questo nostro amore. Pensarti come un tempo, no, non è lo stesso. È solo vederti un momento crea un vuoto dentro. È andata in questo verso, il legame si è sciolto. Paura che tu di colpo divenga un ricordo. Pensarti come un tempo, no, non è lo stesso. È solo vederti un momento crea un vuoto dentro, è andato in questo verso, il legame si è sciolto, paura che tu di colpo diventa un ricordo. Pensati come un tempo, no, non è lo stesso, è solo vederti un momento crea un vuoto dentro, è andato in questo verso, il legame si è sciolto, paura che tu di colpo diventa un ricordo. Call it down. Dime dopo me. Schiavo, è lo schiavo, è lo schiavo, è lo schiavo, è lo schiavo. My mind, you're corrupt. My mind, you're corrupt. My mind, my mind.